Pronto? Sì, pronto. Sì, Alessio Corla? Sì, sono io. Come sta, Cruciani? Come Lorenzo, buonasera. Bene, grazie. Come sta? Grande Corla. Grandissimo bene. Consiglio di amministrazione della RAI. Senta, ci può spiegare perché oggi ha votato contro Minzolini, lei? Io ho votato contro Minzolini perché non avevo altra scelta in rapporto a quello che era stabilito dalla legge 97 del 2001, certo. E quindi era un atto dovuto. Questa è la mia interpretazione. Gli altri colleghi invece sono fuori legge. Gli altri colleghi invece hanno interpretato che fosse una cosa così dovuta, ma che quindi c'è stata una differenza di scelta. Sì. Siccome la maggioranza, lei è stato eletto in quota maggioranza, comunque insomma, PDL. Lei votava contro la destituzione, chiamiamola così, di Minzolini. E insomma, lei ha votato invece a favore. E questo come no, ma vede la gestione di un'azienda prescinde dalle appartenenze politiche. La gestione di un'azienda ha invece come interesse primario quelli che sono i problemi dell'azienda. Certo. Io autonomamente ho avuto la decisione di dover votare in questo modo, non significa che abbia rotto la maggioranza o contro la maggioranza. Non siamo in Parlamento, siamo il consiglio d'amministrazione di un'azienda che ha più di 3 miliardi di fatturato, con la responsabilità di pagare lo stipendio a più di 13.000 persone. Scusi Corla, ma Minzolini secondo lei non era più adatto a fare direttore del TG1? No, sono circondato dai nipotini e l'ho già detto. Vabbè. Quello non è un pressione di essere adatto o meno, era l'interpretazione di una legge che faceva riferimento a un dipendente che si trovava in quella situazione. In quella situazione. Di reato, punto, solo questo. Vabbè, non c'era nessuno. D'altra parte io Minzolini l'ho difeso con un'agenzia due settimane fa, sì, quando l'hanno attaccato sul discorso della share, e l'ho difeso, ho spiegato come secondo me Minzolini non c'entrasse niente in quell'occasione. Ma il traino, quindi non c'entra una valutazione su Minzolini, era purtroppo una decisione obbligata, per quanto è la mia interpretazione, in rapporto alla legge vigente. Scusi, ma gli altri se la sono presa con lei, gli altri consiglieri di maggioranza, parlando di Verro, questi qua? No, perché devono essere... Non l'hanno insultata, no? Petroni, eccetera, no. Bene, senta... Ma i bambini guardano il TG1? No. Come? I bambini spero che non guardino nel TG1, nel TG2, nel TG3, nel TG5, perché sono programmi inatti ai minori, per come sono fatti. Io sono molto critico su come è riportata la cronaca nei telegiornali italiani. Quindi lei ai suoi nipoti non farebbe vedere TG1? Ma non solo TG1, ha detto tutti i telegiornali. Tutti i telegiornali. Tutti i telegiornali italiani, perché la cronaca è fatta in modo molto crudo, violento, e inadatto ai bambini. Ma lei si sente ancora in quota PDL, Corla? Io sono in quota PDL, ma non c'entra niente con il voto che ho fatto oggi. Non posso dirle di lasci di godere i miei bambini. No, per carità. Saluti Cicchitto, me lo saluti personalmente, il signor Cicchitto. Ma perché Cicchitto? Che c'entra Cicchitto? Perché gli voglio bene. Non ho occasione di incontrare Cicchitto tanto facilmente. Ma lei è fuori da PDL, non è più quota grande, PDL. A me piace molto Corla, però. Sono un politico. Appunto. Io faccio la televisione da 30 anni. A me piace Corla. Televisione. Corla, presidente, Corla. Sì. Parenzo credo che mi conosca, perché molto anche bene. Occasione di incontro l'abbiamo avuto. Ci siamo visti, Io faccio televisione dall'82. Lo so.